Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Migliaia di italiani questa mattina si sono svegliati in un paese migliore. La legge sul dopo di noi è finalmente realtà. Sono le famiglie delle persone con disabilità che da oggi possono guardare al domani dei loro cari con un pochino più fiducia. È un gesto bello, è la politica che fa le cose buone, che si prende carico degli ultimi, si prende carico di chi ha più difficoltà. Lo so, adesso ci saranno i soliti commenti, il Boy Scout, sì, io rivendico la legge sul terzo settore, rivendico la legge sui diritti civili, rivendico la legge sull'autismo, rivendico con forza la legge sul dopo di noi. Se da oggi migliaia di italiani possono guardare con più fiducia al loro futuro, è perché finalmente la politica fa vedere le cose buone, le cose che rendono questa comunità una comunità solida perché solidale, forte perché capace di non lasciare indietro nessuno. Questa secondo me è la puntata più importante dell'anno per il nostro impegno di Radio 24, che ci proclama anche noi disabili. Oggi disabili che ascoltano, le famiglie che ascoltano, cercheranno assieme a noi, perché io cercherò di capire durante questa trasmissione, cosa esattamente cambierà della nostra vita con la legge sul dopo di noi approvata proprio un paio di giorni fa. Oggi è legge, quello che ha parlato il Presidente del Consiglio, che naturalmente fa suo lo spirito della legge, ma non nego che una legge è passata con grande contrasto. Tutto il Movimento 5 Stelle ha votato contro, leggo dal blog di Beppe Grillo, che in fondo è il testo sacro della legge dei 5 Stelle, legge truffa, legge crudele, legge che discrimina, legge lontana anni luce alla Convenzione ONU. Cerchiamo anche di capire i motivi per cui molti guardano non solo con spirito critico, ma con spirito proprio di radicale avversione a questa legge. Leggo sul blog, scritto da un ragazzo Asperger, quindi un ragazzo comunque in parte interessato a questa legge, anche totalmente interessato, è la crudeltà di un pensiero che discrimina. Siccome io non voglio partire con un pregiudizio, fra l'altro mi piacerebbe chiedere a Beppe Grillo qual è il suo consiglio nella gestione di un figlio autistico adulto. Secondo lui qual è la maniera migliore per trattarlo? Questa legge secondo me intanto è un riconoscimento del fatto che lo Stato prende atto che c'è un problema grosso, che finora era affidato unicamente alla gestione delle famiglie, che avevano ben poche alternative rispetto a avere come prospettiva per i loro figli, una volta che le forze sarebbero mancate ai genitori, l'inclusione forzata dei figli in una struttura di quelle che spesso si vede sparpagliate per il territorio nazionale, in cui diciamo il progetto di vita dignitosa che noi ogni giorno, e ci metto anche me perché è noto che abbia anch'io questo problema, ci sforziamo per dare ai nostri figli, è radicalmente lontano dalle nostre aspettative, anche nelle migliori occasioni, anche i cosiddetti fiori all'occhiello, anche le strutture che sono un vanto per il paese. Ogni tanto capita che ci mettano le mani le forze dell'ordine, mettono qualche telecamera nascosta e si vede che in realtà i nostri figli altro non sono, spesso sono la ragione sociale di un'azienda che vive sul fatto che lo Stato dia molti soldi per tenere molte persone con disabilità senza specificità di trattamento al loro interno. Beh, questo evidentemente può avere delle alternative, immaginiamo di sì, l'abbiamo fortemente pensato, immaginato, proposto in tutte le maniere, e l'idea personale che le famiglie diventino anche parte attiva nella gestione futura dei propri figli, con naturalmente lo Stato, la cosa pubblica accanto, che le segue, che le assiste, ma va anche incontro ai loro desideri. Se la legge va in questa direzione, sarà una legge senz'altro perfezionabile, modificabile, ci sembra già un passo avanti che oggi di questo parliamo come qualcosa di concreto, non come qualcosa che avverrà. Avrò gli interlocutori più adatti per discutere la legge, per spiegare, per capire, e poi andremo avanti. E prima o poi qualcosa ci inventeremo. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Parliamo, come ho annunciato un minuto fa, della legge sul dopo di noi. Di questa legge parleremo anche in maniera più dettagliata in una giornata intera dedicata proprio a capire meglio quali sono i sensi e le applicazioni di questa legge. Si avverrà questo convegno il 23 giugno 2016 dalle 9:30 alle 13:30, avverrà in una sede istituzionale perché è la nuova aula dei gruppi parlamentari presso la Camera dei Deputati a via Campo Marzio a Roma, ma tutte le informazioni le trovate nel sito amiavvocati.it, che è il sito dell'AMI. Sono gli avvocati matrimonialisti che hanno organizzato questo convegno perché hanno detto: noi una volta tanto non ci vogliamo occupare soltanto di divorzi, di separazioni, di corna, vogliamo metterci a disposizione delle famiglie, visto che siamo avvocati che gestiscono e trattano il diritto di famiglia, per capire meglio quali sono i sensi di questa legge. Sarà un convegno importante in cui le famiglie sono invitate a partecipare, a portare i loro problemi e le loro esperienze e come finora hanno pensato di risolvere questo grosso problema. I giuristi studieranno tutti gli aspetti giuridici, che sono complessi, molti sono anche completamente nuovi. Ci saranno anche molti dei parlamentari che hanno voluto, che hanno sostenuto, che hanno immaginato questa legge, ci saranno rappresentanti delle associazioni, insomma ci sarà uno sforzo per cercare di capire meglio, perché l'atteggiamento nostro è quello che prima bisogna capire e poi vedere quali possono essere i possibili correttivi. Presento subito quelli che sono gli ospiti. Sono ospiti tecnici, ospiti che ci spiegheranno in termini concreti quali sono i termini della legge. Ho l'amico Roberto Speziale, che è presidente nazionale dell'ANFAS. Buongiorno Speziale. Buongiorno a tutti. L'ANFAS è l'Associazione Nazionale Famiglie e Persone con Disabilità Intellettiva e Relazionale. Perché ho scelto l'ANFAS? Perché è una grossa associazione, poi perché si occupa delle persone disabili interessate a questa legge, che sono fra le più fragili, sono quelle che non hanno capacità di determinare il loro futuro, non possono scegliere o perlomeno parzialmente scegliere, proprio perché hanno una disabilità che riguarda il loro aspetto psichico e relazionale, sono le più fragili. Poi il giorno del convegno che faremo alla Camera ci saranno anche rappresentanti di altre associazioni, per non discriminare nessuno. Ma oggi mi sembra che le persone più centrate e più in difficoltà a determinare quella che sarà il loro futuro sono quelle che secondo me oggi vanno più tutelate. Poi ho l'onorevole Elena Carnevali. Elena Carnevali, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. È il deputato del PD, relatrice a Legge Dopo di Noi. Abbiamo parlato con lei al primo passaggio della legge dalla Camera al Senato. La conosce profondamente, l'ha voluta, l'ha sostenuta, l'ha immaginata, l'ha studiata, se l'è presa a cuore e quindi è la persona che meglio può darci il quadro. E poi sono gli ascoltatori che possono chiamarci sin da adesso all'800240024. Elena Carnevali, non mi interessa capire e sentire, non per uggia verso la pluralità, altre forze politiche, perché a questo punto la legge c'è, a noi interessa fare il ragionamento con quello che c'è, che è legge. Quello che era prima non lo fa parte di una discussione precedente, però mi fa capire un po' meglio quali sono stati i motivi profondi del dissenso nei confronti di questa legge, perché è stato un dissenso non superficiale, è stato profondo. Addirittura oggi si legge che questa legge è una legge crudele, discriminante, come se fosse stato fatto qualcosa contro la disabilità piuttosto che per favorirla. Il suo punto di vista, che naturalmente è il suo punto di vista. Certo, ma devo dirvi che il mio punto di vista è anche molto rafforzato dalle opinioni che ho raccolto in questi 20 mesi, nel quale sono andata a presentare la legge, dove le persone che ho incontrato, famiglie, associazioni, non sono persone che sono disinformati, sanno bene quello che stanno facendo e seguono il processo legislativo. Quindi molto probabilmente della volontà di fare un po' di confusione, gettare una sorta di opacità di questa legge, non si fidano di questa intermediazione politica, e il giudizio è positivo, il giudizio anche di chi alla fine ci ha detto dopo 20-24 mesi adesso è il tempo di approvarla, e credo che questa sia soprattutto, come dire, forse la testimonianza più vera, che va oltre la politica e si rivolge soprattutto e tiene conto di chi è particolarmente interessato, quindi portatori, ecco, di interesse. Elena Carnevali, come innanzitutto smussiamo il primo punto, che sembra il più difficoltoso: se una legge discriminatoria favorisce soltanto le famiglie con un patrimonio o con possibilità economiche e lo Stato in qualche maniera lascia sole le altre famiglie, quelle che vivono delle loro basilari risorse per mantenersi ogni giorno. Guardi, questo è nulla di più infondato e di più falso, perché l'asse portante di questa legge è proprio che per la prima volta lo Stato si assume una responsabilità pubblica nei confronti di quello che vogliamo diventi un livello essenziale e quindi esigibile per tutte le persone con disabilità grave. Non è vero che discrimina i ricchi dei poveri, perché casomai nei confronti di chi è ricco, ammesso che lo sia, perché le famiglie con disabilità spesso non sono famiglie ricche, si è, come dire, ha fatto in modo di tutelare i loro patrimoni, piccoli o piccolissimi che siano. Ma questa è una cosa diversa dal fatto che invece con questa legge finalmente si inverte questa tendenza tutta italiana, che era quello di trovare come soluzione a una residenzialità adulta o alla volontà di emanciparsi dalla famiglia o quando i genitori non ci sono più, quella del ricorso all'istituzionalizzazione. E questo soprattutto lo fa nell'alveo soprattutto di ciò che ci è stato chiesto, di ciò che abbiamo anche sottoscritto nella Convenzione dell'ONU. Il diritto, quindi, consentire a loro il diritto di scegliere liberamente come e con chi vivere, con lo stesso principio di uguaglianza che hanno gli altri. Oggi, guardate, attualmente noi abbiamo una legge, che è una legge sulla vita indipendente, la 162, che permette, ancorché sono convinta e voglio dire sono stata, come dire, anche tra quelli che si sono battuti, andrebbe finanziata di più, ma c'è una parte, a mio giudizio, quella che è stata più orfana dell'attenzione della politica, che è stata quella della disabilità grave, intellettiva, relazionale, che ha lasciato sole le famiglie. E questa legge si rivolge in particolare quel tema, perché noi dobbiamo anche essere realistici. Di lì c'è una possibilità per tutti, ma non possiamo pensare che soprattutto nei confronti di chi ha avuto meno attenzione non si riserve attenzione adesso. E questa legge lo fa tenendo conto di alcuni riferimenti importanti, che poi ne parleremo, che sono imprescindibili nella valutazione di questa legge. Le chiedo un esempio concreto. Io mi ci trovo, è cosa nota, non è che nascondo nulla o rivelo nulla, nelle condizioni di dover cominciare a pensare seriamente, avendo 61 anni, che sarà di mio figlio. Cosa questa legge mi dà di strumento rispetto a quello che finora ho considerato l'ineluttabile destino? Io e mia moglie prima o poi ce ne andremo, ha un fratello che prima o poi giustamente si dovrà occupare anche della sua vita, non posso condannare alla compromissione la vita di un altro essere umano. Per quanto noi abbiamo le nostre risorse, abbiamo lavorato tutta la vita, non sappiamo esattamente come sfuggire, non sappiamo come sfuggire al destino che qualcun altro, quando noi non ci saremo più, non abbiamo parenti utili o attivi, il nostro figlio sarà preso e buttato da qualche parte di cui non sappiamo nulla. Cosa cambia per noi da oggi? Così vediamo su un esempio concreto, da anche a me delle istruzioni. Ma innanzitutto cambia che viene ribadito il fatto che il progetto per suo figlio deve essere fatto già mentre voi siete, penso che voi ci state già pensando, e quindi immaginare di poterlo includere, poterlo inserire in percorsi di presa in carico. Bisogna cominciare però ad attrezzare, ad allenare i ragazzi in progetti di distacco dalla famiglia, e questa legge finanzia anche questo, la possibilità di essere inseriti in percorsi di autonomia. Ovviamente questo dipende e è affidato alle responsabilità che sono in capo agli enti locali. Questa legge, guardate, paradossalmente non è che si è inventato nulla di nuovo, ha cercato di consolidare quello che già esiste nei territori dove si sono realizzati. Penso a una mia comunità, quella che conosco, di Bergamo. Ormai in quasi metà dei quartieri, con l'obiettivo di arrivare in tutti i quartieri della città, noi abbiamo degli alloggi protetti, dei piccoli gruppi appartamento, dove le persone, dove i ragazzi adulti, perché spesso sono adulti, vivono in una condizione di piccola convivenza, seguiti da educatori professionali, cercando di consentire loro di mantenere quella vita relazionale, affettiva, occupazionale, ludica, recreativa, esattamente come abbiamo l'esigenza noi. Noi abbiamo bisogno di vivere nei nostri quartieri. Attraverso questo fondo, attraverso gli obiettivi di servizio, c'è un riparto che viene dato alle regioni, perché c'è una responsabilità che è in capo alle regioni per le materie sociosanitarie e sociali, le quali possono a questo punto stabilire, sulla base di quanto poco o tanto è attrezzato un territorio, stabilire su quali territori investire e fare in modo che ci sia una diffusione di quella che io ho definito un'accoglienza diffusa, che deve prevedere ovviamente, e la legge lo prevede, anche il sostegno domiciliare in queste residenze. Perché allora, non possiamo... No, mi fermo solo un attimo per dare la linea, sì, in funzione della borsa, così prendiamo tutti fiato. Speziale ha sentito finora e nella seconda parte ci darà anche lui degli elementi di comprensione. Ho già molti ascoltatori che stanno chiamando. Ho capito un punto, un punto a me era già chiaro, ma mi è stato ribadito dall'onorevole Carnevali. Le famiglie non possono essere un ente passivo che aspetta che le cose gli vengano messe davanti all'uscio di casa. Questa legge prevede e richiama alle proprie responsabilità anche le famiglie. Famiglie già martoriate, massacrate, martirizzate. Tutto quello che conosco bene e so bene e sto conoscendo ogni giorno di più nella mia investigazione nel territorio nazionale. Poi devono cominciare a pensare che devono cominciare a ragionare loro. Ragionare anche in termini di coesione tra famiglie. I progetti a cui si può accedere, le soluzioni a cui si possa accedere, prevedono però una forte coesione fra famiglie. Una famiglia non potrà mai essere sola, da sola con il proprio problema ad affrontare un iter del genere. Prevede la creazione di una struttura, la richiesta dei fondi per alimentare questa struttura, delle persone che seguono questa struttura. Se vogliamo l'alternativa al lager, alla reclusione, al grande ammasso dove tutti sono uguali, dobbiamo cominciare a costruircelo. Lo Stato, mi sembra di aver capito con questa legge, ci darà degli strumenti alternativi rispetto a prenderseli in carico e buttarli dove vuole lui. 800 24 00 24, tra un istante riprendiamo i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta... Melog, cronache meridiane. .800 24 00 24, parliamo della recentissima legge sul dopo di noi. Ricordo che su questo anche faremo un convegno, faremo, nel senso, ci sarò anch'io, ci sarà l'onorevole Carnevali, ci saranno gli avvocati matrimonialisti italiani, dell'avvocato Gassani che avete sentito tante volte partecipare alle nostre missioni. Il convegno si chiama Il diritto di vita per i figli disabili anche dopo di noi. Ci saranno giuristi, ci saranno politici, ci saranno rappresentanti delle associazioni, ci saranno anche genitori o famiglie che porteranno degli esempi concreti di come già si stanno muovendo per creare dei modelli alternativi rispetto all'affidamento a istituti dei propri figli quando non ci saranno più genitori. Ricordo giovedì 23 giugno alla nuova aula dei gruppi parlamentari a Camera dei Deputati, via Campo Marzo a Roma, dalle 9.30 alle 13.30. Allora, mi stanno arrivando molti sms che vogliono sapere un po' in concreto che succede, perché dice non lo hanno capito bene. Parto con un dato concreto, poi alla fine le leggi valgono se hanno dei fondi. Questa legge prevede che ci sia un fondo di 90 milioni di euro, un fondo triennale a cui potranno accedere persone individuate dal Ministero del Lavoro con dei requisiti individuati dal Ministero del Lavoro entro 6 mesi dall'entrata in vigore del testo. Le regioni dovranno definire i criteri per l'erogazione di questi finanziamenti, cioè 90 milioni in 3 anni. Cosa dovranno finanziare? Programmi e interventi innovativi di residenza, il co-housing, maniera di favorire l'indipendenza di disabili in abitazioni, in gruppi, in appartamenti, in case famiglia, insomma qualcosa di alternativo rispetto alla presa in carico dell'istituto. Però su questo vorrei, visto che ha seguito, è stato come un cane mastino che addenta il sedere di una vittima dietro questa legge, Roberto Speziale, ricordo presidente nazionale dell'ANFAS. Finiamo di capire, Speziale, innanzitutto come la vedi te questa legge? Il tuo punto di vista, visto che rappresenti tantissime persone con il problema. ANFAS ha espresso con un comunicato la piena soddisfazione per l'emanazione della legge. Lo ha fatto come in modo consapevole, avendo seguito passo passo per tutto l'iter legislativo l'evoluzione della legge stessa. Ricordiamo che rispetto ai 6 testi originari, poi riunificati nel testo unificato, alla fine come ci sono stati consistenti modifiche migliorative. Sì, qualche mese fa ci eravamo sentiti, avevi qualche dubbio, c'erano delle cose che ancora non andavano bene. Assolutamente sì. ANFAS infatti nel tempo ha scelto non di limitarsi alla critica, ma di proporre costantemente emendamenti migliorativi. Ne ha proposti anche ben 9 al testo che era entrato al Senato, solo alcuni recepiti, e se fossero stati recepiti tutti la legge sarebbe ancora ulteriormente migliorata, ma alla fine abbiamo ritenuto che è piuttosto che determinare un sistema per cui la legge rischiava di cominciare a fare rimbalzo fra Senato e Camera, di chiudere, come dire, definitivamente l'iter e avere la legge. La legge è importante. Tu sei d'accordo con chi dice che è una legge che discrimina? Assolutamente no. E perché non secondo te c'è questa idea? Circola questa idea, su cosa è fondata? Io rispetto tutti i punti di vista, ma questo deve essere dimostrato stando nel merito nella legge. E andiamo nel merito della legge, perché la migliore risposta non è quella di fare polemica. Tutti i punti di vista vanno rispettati, però poi il confronto nel merito di ciò che questa legge prevede, e vedremo che confessa anche, come dire, più agguerriti detrattori. Fai degli esempi, così capiamo meglio. Esatto, con degli esempi come cambia? Intanto partiamo da questo dato. Oggi, mentre noi parliamo, 400.000 persone con disabilità, la maggior parte con disabilità intellettive, vivono in struttura con più di 80 persone. Chiamasi istituti, oggi per le famiglie l'unica soluzione, nel momento in cui la famiglia non sia in grado più di potersi prendere cura e carica del proprio congiunto con disabilità, il destino crudele è quello di vedere il proprio figlio, come dire, deportato in una condizione che non è quella che nella persona con disabilità che la famiglia vorrebbe. La domanda che le famiglie anziane, ma tutti noi ci poniamo, cosa ne sarà di nostro figlio quando noi non ci saremo più, è, come dire, predittiva esattamente di questo, perché sappiamo che prima di questa legge sapevamo che l'unica o le poche possibilità che vi erano quelle appunto di vedere i nostri figli in una condizione di vita che non era quella, come dire, che tutti noi avremmo auspicato, tranne le famiglie ricche. E prima di questa legge solo le famiglie possidenti potevano farsi delle scelte, che erano appunto quello di mettere a disposizione le proprie risorse familiari e personali e creare per il proprio figlio una condizione diversa. Quindi esattamente opposto. Oggi, grazie a questa legge, tutte le famiglie e le persone con disabilità sono in grado di progettare nel durante noi un dopo di noi, partendo da delle priorità che la legge prevede. La Ma questi progetti, così via via pongo le domande, questi progetti sono finanziati? Cioè, metti caso, faccio sempre degli esempi, tre famiglie si organizzano, troviamo un appartamento, troviamo gli educatori, facciamo un progetto per i nostri figli, personalizzato sui bisogni dei nostri figli, vengono finanziati questi progetti? Questa legge è fatta per questo, lo dice in modo, come dire, non chiaro di più. Cioè, non avremmo mai dato nessun consenso né, come dire, valutazione positiva se esattamente non avesse centrato questo obiettivo. Questa legge, questo obiettivo lo centra perfettamente, come dire, lo dichiara, lo esplicita e poi lo consolida nell'articolato. E chi decide se i progetti sono congrui? Perché tre famiglie potrebbero decidere: i nostri figli vogliamo far fare meditazione zen, e vogliamo fargli fare attività con i delfini, perché di stronzate ne girano a tonnellate. Chi decide qual è il congruo finanziamento per il congruo progetto? L'ancoraggio all'articolo 14 della 328 nei progetti individuali. Quella è stata una intuizione, come dire, straordinaria, di avere inserito nella legge, per cui per evitare improbabili soluzioni, che le soluzioni comunque siano quelle che non solo sono, come dire, confacenti al progetto di vita della persona, ma che abbiano una loro valenza e una loro ragion d'essere coerente con la legge stessa, quindi microcomunità, i sostegni adeguati alle persone che decidono, alle famiglie, di continuare a far vivere la stessa persona con disabilità nel luogo dove ha sempre vissuto, la deistituzionalizzazione, il co-housing. Cioè, sono state previste una pluralità di soluzioni, ma tutte rispettose dell'articolo 19 della Convenzione ONU, di garantire ad ogni persona di poter scegliere dove, come e con chi vivere. Fermo un attimo. Elena Carnevali, ricordo, deputato PD, relatrice della legge Dopo di Noi. Quali strumenti abbiamo noi a tutela che i fondi non siano dissipati in progetti improbabili, folli, sciamanici? lei sa meglio di me, molte volte anche le famiglie lasciate a loro stesse, mal consigliate, quanto sia difficile poi far capire quando, quale secondo le evidenze scientifiche, la razionalità sia la migliore strada per i loro figli. Ci sono famiglie che si organizzano per ancora fare viaggi della speranza, per far fare cure staminali a figli adulti che non servono solamente a nulla. Scusi se lo dico, ma conosco bene la materia. Ecco, che strumenti avete messo a disposizione per delle soluzioni razionali e eque soprattutto? Ma la prima cosa che voglio ricordare, oltre ad integrare e salutare anche Roberto Speziale, che l'adesione alla, importante è l'articolo 14, quindi del progetto individuale. Ma questo lo voglio dire rispondendo anche a delle critiche che vengono ai detrattori. Il governo rimane in mano pubblica e la responsabilità è pubblica, e lo fa attraverso le regioni, che sono loro che sono la parte istituzionale, oltre a, ovviamente, al decreto che verrà scritto anche a livello nazionale, che stabilisce i criteri di riparto, come vengono ripartiti, per quale obiettivo, che non possono essere che quelli che sono iscritti alla legge. Ma poi il finanziamento dei progetti che si realizzano sui territori passa attraverso la sorveglianza, a questo punto, delle regioni e dei comuni. La mano pubblica è importante. Oddio, proprio... per me non è una gran tranquillità, perché regioni e comuni ancora finanziano tali idiozie in giro per l'Italia. Ci vorrebbe un principio di attenzione forse un pochino più dettagliato, secondo me. Ma è un'osservazione giusta, Nicoletti, ma questo noi lo facciamo attraverso... Lei lo sa che conosco bene i miei polli, mi preoccupo per le famiglie, mica perché lo dico però, per fare polemica. Però dobbiamo uscire da questa contraddizione, se posso permettermi, perché sì, da un lato non si può dire che a questo punto è una privatizzazione e lo lasciamo tutto in capo dal terzo settore, dall'altra parte quando si chiede che ci sia un governo pubblico temere che questo non si realizzi. Quindi il decreto sarà uno degli strumenti che, oltre a stabilire gli obiettivi di servizio, cioè perché cosa li finanziamo, quanto distribuiamo, anche le modalità per quali progetti, con quali garanzie, in modo molto trasparente, come sono tutti gli atti pubblici. Lo so, onorevole Cardevale, io sono probabilmente la persona meno adatta a parlare di associazionismo, che sono un dissociato genetico, però in questo io mi aspetto moltissimo dalle associazioni, che finora hanno sempre dimostrato comunque di avere il timone, almeno su quelle che sono le cose migliori da fare, avere unanimità, almeno sui trattamenti giusti, sulla maniera giusta. Questo è il momento in cui le associazioni veramente si prendano una loro responsabilità molto concreta, perché solo il loro sta in mano, diciamo, di fare massa, e laddove la legge non è applicata in maniera corretta e reale, a segnalarlo. Ci fermiamo un istante, a tra poco. Melog. Cronache meridiane. È soltanto, diciamo, una prima lettura della legge Il dopo di noi, la legge complessa, però è ora che le famiglie si diano a fare, si documentino, vadano a cercare un'occasione per avere ancora delle informazioni più dettagliate. Sarà venire o partecipare al convegno che si terrà il 23 giugno dalle 9.30 alle 13 alla Camera dei Deputati, nuova aula dei gruppi parlamentari. Per iscriversi o per avere informazioni andate a vedere nel sito dell'AMI, amiavvocati.it, è l'associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, che si sono messi a disposizione di far capire e di fare da cerniera tra famiglie e la possibilità di interpretare, di usare al meglio questa legge. Sentiamo qualche ascoltatore, visto che ho sacrificato un po' il pubblico, ma mi interessava entrare nel vivo del dibattito, far capire esattamente di cosa si tratta. È stata una legge che comunque ha degli strumenti concreti, quindi ha dei soldi che comunque passeranno per gli enti che li amministreranno, che potranno finanziare dei progetti personalizzati. Le famiglie potranno fare dei progetti, quello che abbiamo sempre chiesto, quello che abbiamo sempre voluto. Ora però è il momento di studiare e di lavorare, di impegnarsi, se no altrimenti i progetti non si fanno da zero. Occorre lavorare, pensare, studiare, individuare le professionalità, trovare le persone giuste e le maniere giuste. Giuseppe da Pesaro, buongiorno. Sì, buongiorno, ho pazientato molto volentieri, non si preoccupi. Mi dispiace che l'ho fatto aspettare ma dovevamo prima far capire esattamente... Dica il suo problema, velocemente. Ecco. No, il problema mio non è un problema, è un'idea, una esposizione. Io ho una realtà di un figlio che ha 40 anni, a lui è praticamente quasi indipendente perché vive da solo, però quando non ci saremo più noi, lui avrà sicuramente delle difficoltà. Sta nascendo un progetto con una casa famiglia che è situata nel territorio e stiamo lavorando. Io dico che comunque, da quello che conosco io, perché io ci sto lavorando con questa casa famiglia e con tutta l'organizzazione che ci sta a monte di questa casa famiglia, che è un'associazione legata soprattutto al territorio tra Rimini e Pesaro e le Marche e la Romagna, quindi bisogna lavorare con queste realtà. Primo discorso. Secondo discorso, un grazie veramente importante a lei, all'onorevole Carnevali, alla Argentin. Sì, ma la trasformiamo, anche... scusi Giuseppe, no, non no, trasformiamo. No, ma non voglio fare della propaganda, piuttosto io lei chiedo... Scusi Giuseppe, lei mi sembra una persona che è d'accordo, che si è tirato sulle maniche in tempo, ha un figlio adulto, grande, con cui sta collaborando, preparargli il suo futuro. La legge viene perfettamente in linea. Inutile ringraziare i politici, fanno il loro mestiere, stanno lì per fare questo. Grazie, sono stati bravi, una volta tanto gli siamo grati, però quello devono fare. Carlo, buongiorno. Sì, pronto? Sì, Carlo, sì, pronto. Pronto? Sì, sono prontissimo. Dica... Ah, okay. No, ho delle difficoltà di linea, mi scusi Nicoletti. Sì. Io volevo intervenire però per un discorso, mi scusi, sono dentro in un capannone. Io volevo intervenire però ponendo il problema a valle. Io guardi, rispetto al precedente intervento non ho da ringraziare nessuno. Ho da ringraziare solo me stesso, quello che ho fatto e quello che mi supporta, le persone che mi supportano. Qual è la domanda, io le parlo, Carlo? Per il problema della disabilità mentale, cioè di quelli che sono come noi, ma che hanno dei grossi problemi e non riescono a vivere. Cioè, potrebbero essere benissimo delle persone che sono a fianco di noi e hanno una sofferenza incontenibile, non descrivibile. Forse lei mi segue, Nicoletti, ed è nella mia stessa barca. Sì, qual è la domanda? Il problema qui, a valle, è che manca un controllo, cioè la ben cantata Lombardia che ha per Vox Populi Carlo, scusi Carlo, c'ho pochi minuti, o mi dice la domanda, se no, certo, qual è la sua domanda? La domanda è che mi chiedo se questa legge in fondo ha determina un controllo di queste cose. La domanda che ho fatto io prima, che ci saranno. Perfetto, ho fatto la domanda che ho fatto all'onorevole Carnevali e ha detto che faremo il possibile per fare attenzione su queste cose. Abbiamo detto prima. Floriana, poi avranno modo di rispondere agli ospiti, siete più concisi nelle domande. Floriana, provincia di Milano. Buongiorno, io ho 47 anni e una bambina di 11 anni e mezzo con una grave disabilità sia intellettiva, relazionale che motoria. Sono giovane rispetto a voi, però già adesso mi sto preoccupando. Ma il tema che volevo sollevare è una questione di risorse economiche, perché io ho visto in questi 11 anni venire meno le risorse per quelle che sono le necessità di adesso di mia figlia, che frequenta ancora la scuola elementare e che adesso che appunto la scuola è finita devo aspettare il 20, perché il mio comune il 20 attiva il campo estivo. Allora posso dire una cosa? Perché tutte le scuole italiane per disposizione del MIUR hanno un budget di 7.000 euro al mese per 2 mesi per fare delle attività di continuità scuola-lavoro. Quindi anche la scuola di sua figlia avrebbe 7.000 euro al mese per 2 mesi per fare dei progetti per i ragazzi anche nei mesi estivi. Si rivolga alla sua scuola, chieda perché questi soldi non li usano. Perché ho parlato ieri con il funzionario del MIUR. Molte volte è la volontà reale di mettersi in connessione fra le varie parti. Lei sta aspettando il comune che le faccia il campo scuola o il campo estivo. Lei dovrebbe sapere, si vada al dirigente scolastico della scuola, dice con questi 7.000 euro che ti dà a disposizione il MIUR per fare dei progetti estivi per i ragazzi, perché non appoggi un progetto che noi potrei fare per mia figlia e alcuni ragazzi come lei? Provi a chiederlo. Elena Carnevali, è chiusa la sigla, dice che Elena Carnevali non può dire altro. Abbiamo dato spazio agli ascoltatori e il tempo è quello che è. Ci rivediamo per il nostro convegno. Abbiamo cercato per quanto possibile darvi una prima lettura della legge, ma visto che le domande sono tante, ritorneremo con i nostri interlocutori prossimamente a entrare ancora più nel dettaglio, visto che ancora, finché siamo a questo microfono, dedicheremo spazio anche alle persone con disabilità. Alla prossima.